quando abbiamo ovviamente messo in programmazione Casa del Popolo non sapevamo che andavamo a fare controprogrammazione, quindi è una scelta così suicida da un certo punto di vista. Ma guarda, in parte questa cosa che stai dicendo riguarda un po' anche la parabola di quello che raccontiamo nello spettacolo, perché a un certo punto la parabola di queste Case del Popolo va a dare in quello che sono o in cui si sono trasformati ora come ora gli eredi delle Case del Popolo, che sono i circoli arci, dove c'è ancora una sana cultura popolare e dove si ritrova in larga parte quello che c'era nelle Case del Popolo, ma dove spesso ci si cimenta in burraco, tombole, insomma è diventata tutta una grande salsiccia. Esatto, cioè è diventato tutto un po' meno ideale, un po' più commercio, ecco, da un certo punto di vista, insomma. Però ecco, in qualche modo devo dire che anche quando siamo andati a fare un po' di ricognizione all'interno della Casa del Popolo, degli attuali arci, cioè appunto gli eredi di Casa del Popolo, si trova ancora una bella umanità, quell'umanità anche un po' divertente che viene raccontata all'interno dello spettacolo, insomma. Che si sentirà un po' abbandonata in questo momento. Beh sì, si sente molto abbandonata. Diciamo che dove ancora questo ideale resiste, insomma, si sente abbandonata, si sente persa, si sente che non sa più dove può andare, ecco, insomma, non trova punti da prova. Si parla anche di un orizzonte da raggiungere, del famoso orizzonte che non si raggiunge mai, perché l'orizzonte si sposta con noi mentre camminiamo. Ecco, diciamo, questo orizzonte in alcuni casi non si fa fatica a individuarlo. Ecco, sì, anche se il concetto per me è bellissimo ed è un motivo di conduzione, un motivo di vita, un motivo di lavoro, un motivo per il Breakfast Club, l'utopia e l'orizzonte non si raggiungerà mai, ma intanto camminiamo, e camminare è molto importante per procedere nei nostri percorsi. Come ho anticipato, per la curiosità, per lo stimolo di conoscenza, per la divulgazione e quant'altro. Beh, ci puoi parlare un po' dello spettacolo, anche come andrà in scena, Nicola? Sì, allora, lo spettacolo è un spettacolo che, appunto, come hai detto tu, riprendiamo dopo qualche anno, riprendiamo sull'onda della pubblicazione di un romanzo, perché alla fine, insomma, lo spettacolo erano rimasti molti materiali che non erano entrati nello spettacolo alla fine della prima edizione, diciamo così, della prima messa in scena, e quindi ho scritto un piccolo romanzo che ha vinto anche un premio, che è il premio Malerba, insomma un premio abbastanza importante. Quindi sulla scia della pubblicazione del romanzo abbiamo messo in scena lo spettacolo, che racconta di una folla di personaggi che si ritrova 100 anni fa, cioè esattamente nella stessa data in cui cade la rappresentazione serale dello spettacolo, e per costruire una Casa del Popolo, per riunirsi all'interno della Casa del Popolo, e la storia di questa Casa del Popolo, di questa assemblea, va avanti per 100 anni fino alla data dello spettacolo, insomma, diciamo, quindi oggi è il 10, si immagina che l'assemblea cominci 100 anni fa, il 10 febbraio del 1923, e va avanti fino alla data odierna, cioè. E però lentamente questa Casa del Popolo si spopola, diciamo, e questa folla di personaggi, ecco, la cosa interessante nella versione dello spettacolo è che viene agita da soli tre attori. Sì, che ricordiamo, da quello che vedo, sono Lorenzo Ansaloni, Micaela Casalboni e Giovanni Di Spenza. Sì, sul palcoscenico la tua narrazione, la regia è di Andrea Paolucci, gli orari magari li ripetiamo dopo. È un'operazione per crescere, non necessariamente di memorabilia, Nicola. Sì, non vuole essere di memorabilia, non vuole essere nostalgico. Cioè è chiaro che c'è la nostalgia rispetto a quei tipi umani, insomma, un calore che magari non si trova più, ma non vuole essere un'operazione nostalgica, sì. Cioè, perché sennò diventa un'operazione retorica, non vuole essere quella cosa lì, non ci interessava fare retorica. È un'operazione anche ironica, divertita, quindi si ride anche molto, insomma, soprattutto, ecco, in rapporto a quello che stavi dicendo, si ride molto, ma si ride un po' così amaramente, flettendo, ecco, una speranza che poi non tutto sia perduto, quella voglia di stare insieme, perché è quella la parola cardine, insomma, su cui si è costruito lo spettacolo, quella voglia di stare insieme, di fare le cose insieme, non si sia completamente perduta, ecco, cioè insieme, non da soli, non dentro un egoismo e una rivalità continua, perenne, ma proprio la voglia di anche la solidarietà, insomma, comunque tutti dentro raggiungimento di qualcosa. Il solo il fatto stesso di pensare e di immaginare un'utopia rende quell'utopia possibile, ecco, certo. Diciamo. Perché la libertà è partecipazione, diceva un filosofo che è decisamente più incisivo per quanto riguarda questa mia semplice e riportata affermazione. Perché siamo arrivati a tutto questo? Poi ci sarebbe da parlare, da approfondire per ore e ore, ma la possibilità dell'incontro sabato 11, cioè domani, vi sarà l'incontro con la compagnia. poi ovviamente la digitalizzazione selvaggia, l'allontanamento che hanno portato le politiche mancanti per quanto riguarda l'aspetto sociale. Insomma, le motivazioni sono diverse, anche i provvedimenti recenti, cioè la prima cosa, l'attacco ai cosiddetti rave, è chiaro che poi dopo può sfociare in un attacco a tutti i motivi di aggregazione non allineati, e questa non è esattamente un bel incipit per cominciare un percorso di cambiamento che a quanto pare ci porta piuttosto che indietro, nonostante le nostre possibilità tecnologiche, ma per quanto devo dire le possibilità umane. Ecco, dimmi pure, scusa, guarda, ovviamente condivido tutto. Stavo pensando appunto a riprendere lo spettacolo con queste 5 giornate, non è voluta, ma ovviamente è caduta in un momento quasi, cioè la pertinenza, ecco, la quale cade. Sì. Allora, queste 5 repliche è evidente, insomma, diciamo, ripeto, non era voluta, però è chiaro che sì, ci sono una serie di cose che sono successe, stanno succedendo, che rende ancora più importante la possibilità, ecco, di rimettere in gioco una riflessione di questo tipo.